così il minaccioso Durvalder. Votate il sondaggio di oggi, più 100% di divorzi, segno che la famiglia è in crisi o segno di maggiore libertà? Alle 8:17 minuti eccoci di nuovo qui con 24 Mattino con la nostra tortora di fiducia Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Te la do io la tortora stamattina. No, per carità, rieccolo. Figuriamoci se Peter non era pronto. Questa non la sapevo neanch'io. La facciamo diventare il tormentone di fine luglio, Alessandro, dai. Questo è il nostro alpino Peter. Allora, sentivo che manca il tormentone dell'estate di Canzonetta. Esatto, sì, ma sono sicura che quella foto che hai trovato sull'unità diventerà un degno accidenti, tormentone. Accidenti. Stamattina. No, ma quando ti ho sentito tolta, che dicevi, non riesco tolta a descrivere in radio una non foto. So. No, la posizione non riuscivo a descrivere, se non con termini un po' triviali. Diciamo che oggi con la tua segnalazione schizzeranno le vendite dell'unità. Comunque, buongiorno. Gli ascoltatori di Soldi e Dintorni. Oggi ci rivolgiamo ai viaggiatori on the road, non a quelli che partono da casa e raggiungono la località di vacanza con la propria auto, magari, ma a quelli che la noleggiano sul posto. Si può noleggiare naturalmente anche non necessariamente andando in vacanza, ma anche per altri motivi, di lavoro o altro, e però insomma il noleggio dell'auto è una possibilità a cui molti ricorrono, però bisogna conoscere bene tutto l'ABC del noleggio, se no ci capita quello che è successo a me tanti anni fa durante un viaggio in Spagna, quando sono arrivata a Madrid bella ventenne con mia cugina e volevamo noleggiare l'auto e non avevamo capito che funzionasse intanto con una caparra, dovevamo dare la carta di credito e invece abbiamo dovuto sborsare in contante una bella appunto caparra. E allora stiamo attenti anche a queste cose, bisogna sapere bene anche quello che bisogna fare. Allora abbiamo chiesto aiuto stamattina ad un collega di Quattro Ruote, Emilio De Leidi, caporedattore attualità. Buongiorno Emilio, benvenuto, anzi bentornato a Soldi e Dintorni, perché forse in passato ti ho già disturbato altre volte. Eccomi, ciao, buongiorno. Emilio, buongiorno a tutti. Allora, prima cosa, visto che ho già tirato fuori l'argomento denaro per il noleggio dell'auto, qual è la prima cosa a cui dobbiamo fare attenzione nel momento in cui decidiamo di affittare un'automobile? Partiamo un po' dal preventivo che ci fanno. Beh, il preventivo è essenziale perché bisogna tener conto di tutte le voci che sono comprese, per evitare poi delle brutte sorprese al momento in cui si paga la fattura finale. Per cui bisogna guardare molto bene sia che si prenoti via internet, sia che lo si faccia con altre modalità in agenzia o sul posto, che siano comprese il chilometraggio illimitato, tutte le assicurazioni, in particolare se esistono delle franchigie sulle assicurazioni, quindi delle quote in caso di danni a carico di chi noleggia la vettura, e se ci sono degli extra, per esempio se è prevista la riconsegna della vettura col serbatoio di carburante pieno o vuoto. Questo è considerato un extra? Sono delle penali in più. No, ma mediamente mi sembra che sia obbligatorio comunque riconsegnarla con il pieno, se non lo si fa si pagano delle penali? Sì, ma ci sono delle opzioni tale per cui puoi riconsegnarla vuota e il pieno ti viene addebitato a una tariffa forfettaria che di solito è inferiore a quella del costo del carburante vero e proprio. Però è un'opzione, la fuel option, che devi decidere al momento del noleggio. Molto importante per esempio capire se è prevista la possibilità di un secondo guidatore o se invece bisogna pagare un'estensione per l'extra driver, e a quel punto è fondamentale, perché se no, se facciamo guidare nostra moglie o un amico, rischiamo di non essere assicurati. E poi tu hai parlato di carte di credito, c'è un aspetto molto importante: la cifra di cauzione viene bloccata sulla carta di credito. Se noi abbiamo un massimale, rischiamo poi di avere solo la cifra residua come disponibilità da spendere successivamente. Immaginiamo di avere una carta di credito con 2.500 euro di tetto massimo di spesa, ce ne chiedono 1.500 di cauzione, quei 1.500 lì sono bloccati, non possiamo più spenderli, e da quel momento avremo a disposizione solo 1.000 euro di saldo residuo utilizzabile. Benissimo. Quindi attenzione a non giocarsi tutto al momento del noleggio. Esattamente, quindi quantomeno, poi possiamo fare quello che vogliamo, ma che si conosca appunto che funziona così. Quando affittiamo un'auto, Emilio, per un certo periodo di tempo, mediamente facciamo anche così un'ipotesi di massima del nostro programma di viaggio e abbiamo in testa quello che potrebbe essere un numero massimo di chilometri da percorrere, lo dobbiamo indicare alla società di noleggio, oppure se poi ci capita qualche disguido, magari, che ne so, il nostro percorso, il nostro programma cambia, oppure alla società non interessa questo? No, è molto importante sapere quali sono le condizioni di noleggio. Se il chilometraggio è limitato, questo problema non si pone. Invece, se vengono compresi nella tariffa delle cifre massime, tipo 200 km al giorno, allora dobbiamo informarci su quanto ci viene a costare ogni chilometro in più, in centesimi di euro di solito, e a quel punto fare bene i conti, perché se prevediamo delle tappe magari di 300, 400, 500 km, è chiaro che quella formula lì non conviene. Magari ci rivolgiamo a qualcuno che ci fa pagare qualcosa di più al giorno, ma ci dà il chilometraggio illimitato. Quindi certo, sapere bene quanta strada si vuole fare ogni giorno. Ormai quando guidiamo, Emilio, siamo abituati ad utilizzare tutta una serie di accessori, servono molto spesso per famiglie molto ampie, seggiolini naturalmente per i bambini o il navigatore satellitare. Sono inclusi questi, chiamiamoli così, servizi nelle auto a noleggio? Bisogna chiedere? Bisogna chiederli al momento della prenotazione, non sono mai inclusi e spesso richiedono un supplemento di quota. Tenete presente che quando si prenota un'auto si prenota una categoria di auto e quindi non è detto che poi quella che si pensa di aver prenotato sia la stessa che si trova. Cioè, se si prenota una vettura di categoria intermedia, si potrà avere una Alfa, Fiat, BMW, Mercedes, eccetera, ma non necessariamente quella che abbiamo in mente. Qualora la vettura non fosse disponibile, è molto importante che deve essere prevista dalla compagnia una forma di risarcimento, cioè o ci viene data a parità di prezzo una vettura di categoria superiore, o se la categoria è inferiore ci deve essere fatto uno sconto congruo pari almeno alla differenza tariffaria prevista per la categoria inferiore. Questo succede spesso in periodi di alta stagione come quella attuale. Come quella attuale, certo. Volevo ritornare per un attimo, Emilio, sulla questione delle assicurazioni. Le auto a noleggio sono assicurate per qualunque tipo di danno? A quali casi una parte di questo, se ci capita un incidente, naturalmente speriamo che questo non succeda, però può capitare andando molto in giro, viene anche addebitata a carico del cliente? In quali casi una parte di questa viene addebitata a carico del cliente? Allora, sempre se ci si limita all'assicurazione di base, che è quella di responsabilità civile, cioè nei confronti di terzi. Per questo bisogna chiedere sempre di aggiungere delle assicurazioni supplementari che sono fondamentalmente la formula della casco, cioè risarciscono anche i danni che causiamo noi alla nostra vettura. Poi ci sono altre opzioni che possono riguardare per esempio l'assicurazione del bagaglio o del conducente, che non è compresa nella responsabilità civile, e in questi casi si può decidere se la si vuole o meno. Però la casco, quindi quella sui danni che si recano alla propria vettura, è assolutamente consigliabile e bisogna controllare che non abbia una franchigia troppo alta, cioè non ci sia una quota a carico di chi noleggia troppo rilevante. Emilio, il noleggio dell'auto è un mercato importante per il settore automobilistico italiano? Ma è un mercato abbastanza importante, anche se in realtà è molto più sviluppato in altri paesi come quelli anglosassoni, dove è una cultura, un'abitudine quella di spostarsi in aereo, viste le grandi distanze, e poi di noleggiare la vettura sul posto, in aeroporto o in altre località. Questo fa sì che le tariffe in Italia e in Europa in generale siano molto più alte, per esempio, di quello che succede in paesi molto grandi come gli Stati Uniti, il Canada o l'Australia. È un mercato in sviluppo con le formule del fly and drive e io suggerisco per esempio chi prenota dei voli low cost di confrontare anche le tariffe delle autonoleggi low cost che sono proposti insieme al volo, perché spesso possono essere competitive. Grazie Emilio, buona giornata, e se sei in procinto di andare in vacanza naturalmente buona vacanza, a presto. Grazie. Saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Emilio De Ledi di Quattro Ruote. Alessandro, eccoci qui. Oggi a Salvadanaio ci prepariamo un po' all'esito degli stress test delle banche europee che arrivano stasera alle 18, così facciamo qualche commento su quello che è successo sui mercati questa settimana. Benissimo, noi ci ritroviamo anche lunedì mattina, buon weekend nel frattempo. Grazie. E di che parliamo noi? Nel nostro sondaggio parliamo di divorzi, perché l'Istat ha certificato che in 13 anni, dal 95 al 2008, i divorzi sono raddoppiati, più 101%. Allora noi vi chiediamo, secondo voi è un segno inequivocabile del fatto che la famiglia è in crisi, oppure è il significato che c'è più libertà, è il sintomo, il segno di una libertà conquistata da parte di uomini e donne? Alle 8:30 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Nel nostro sondaggio di oggi parliamo di famiglia. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Si dovrebbe dire o di famiglia e di divorzi, perché la statistica che ci ha fornito l'Istat ieri e un paio di giorni fa, per la verità, è abbastanza impressionante, è questa: negli ultimi 13 anni, dal 95 al 2008, le cause di separazione sono aumentate del 61%, i divorzi del 101%, sono raddoppiati. E allora noi ci vogliamo chiedere oggi, e vi vogliamo chiedere nel sondaggio che dovete votare su radio24.it, bianco o nero, è questo. E secondo voi questo è il segno inequivocabile, il fatto che la famiglia, l'istituto familiare è in crisi, oppure è il sintomo, è il segno che c'è una maggiore libertà nelle proprie scelte di vita, sono libertà conquistate? Che ne pensate? Ne vogliamo parlare. Saluto la professoressa Lucetta Scaraffia. Ben ritrovata, professoressa. Buongiorno. Buongiorno. Insegna la Sapienza di Roma, storia contemporanea. Saluto il professor Carlo Rimini, che insegna diritto privato alla Statale di Milano. Professor Rimini, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Senta, professoressa Scaraffia, lei che ne pensa? È una maggiore libertà conquistata oppure è un segnale che lei legge in chiave solo negativa? Due le cose insieme, naturalmente. Poi uno può domandarsi se la felicità, se la libertà da felicità, per esempio, cioè se è aumentata la felicità che ciascuna persona raggiunge nel corso della vita, inseguendola attraverso dei divorzi, dei nuovi rapporti o no. Questa è la domanda che alla fine bisognerà farsi e che invece sembra che non abbiamo molta voglia di farsi, perché in questa domanda ci deve stare magari anche la solitudine nella vecchiaia, ci deve stare anche la fatica e il dolore di ricominciare una nuova vita, il disagio economico che provocano i divorzi. I divorzi non sono solo l'inizio di una nuova vita, ma sono anche un trauma affettivo e un disagio economico e concreto, molto forte. Quindi bisognerebbe mettere tutte queste cose e poi fare un bilancio. Alla fine, io devo dire la verità, penso che siamo in pari, cioè penso che le sofferenze che sicuramente provocano un rapporto familiare, la difficoltà di adeguarsi a un rapporto di coppia, una vita familiare, siano poi uguali a quelle che si provano nel rompere e ricominciare. Ecco, io penso che poi la dose sia più o meno la stessa. Ma lei che lettura dà della motivazione di questo raddoppio di divorzi? Qualcuno dice che sono i rapporti così. Ma guardi, sono tante cose. Cioè, intanto c'è la rivoluzione, il mito della realizzazione individuale. Noi nasciamo tutti in una società in cui dobbiamo realizzarci, tra l'altro siccome non tutti riusciamo a realizzarci nella professione, non tutti abbiamo questa possibilità, c'è l'idea di realizzarsi nella vita affettiva, ottenere una vita sessuale meravigliosa, una vita affettiva senza ombre. Naturalmente nessun matrimonio assicura questo, ogni matrimonio è duro e difficile, ha dei momenti in cui si appanna tutto, la vita sessuale, la vita affettiva, bisogna con fatica ricostruirla. Il matrimonio è una costruzione difficile nel tempo. Io non so se esistono matrimoni in cui questo non avviene, non credo, cioè, credo che il matrimonio sia un percorso difficile che ti dà molto, ti dà un rapporto consolidato, una compagnia affettiva, però ti dà anche molta fatica. Certo che ricominciare uno sente invece di nuovo la sensazione di vivere un rapporto sessuale appagante, una risposta affettiva forte. Come ieri spiegava il sociologo Alberoni in questa intervista alla Stampa, dire si vive di più a lungo e si vive meglio, e nel senso dal punto di vista della salute, no? A 60 sì, anni certo, no? Ci si rimette in gioco, e quindi il sociologo Alberoni certo a dire non è che in un matrimonio uno cerca solo quello, però volete mettere, no? Sentirsi sempre giovani, vigorosi, cercare nuove passioni, nuove pulsioni, eccetera, quando invece molti, e vorrei da questo arrivare al professor Carlo Rimini, arrivano al tribunale a dire molto banalmente ci separiamo perché non ci sopportiamo più. Allora lei, professor Rimini, cosa ne pensa di questa diciamo dicotomia che abbiamo messo, istituti della famiglia in crisi brutalmente oppure come lei ha scritto ieri sulla Stampa, guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno se vogliamo. Sì, io sono nel senso che effettivamente penso che il dato, che senz'altro in sé considerato è negativo, dell'aumento delle separazioni e dei divorzi, sia un dato che però è il punto di emersione in negativo di un fenomeno di evoluzione positiva della nostra società e anche del nostro diritto. Cioè, noi abbiamo ormai introdotto nella nostra legge e prima ancora nei nostri costumi l'idea che i coniugi sono uguali, non c'è più il marito che comanda, la moglie che obbedisce. E di fronte all'uguaglianza, naturalmente, poi la gente tende a litigare di più, perché due persone che devono mettersi d'accordo possono fare più fatica a farlo rispetto a due persone o un gruppo familiare in cui c'è un capo famiglia. Meno male, almeno su questo si potrebbe dire meno male, però gli effetti sono anche questi. Gli effetti, è chiaro, c'è anche un effetto negativo di una conquista sociale evidente. C'è il medesimo aspetto, si coglie nella raggiunta autonomia sociale della donna, autonomia anche economica. Fino a che le mogli ubbidivano ed erano anche economicamente sottomesse ai mariti, gli spazi di disgregazione della famiglia erano limitati. E poi c'è un altro aspetto, ormai francamente la separazione e il divorzio dal punto di vista sociale sono un aspetto negativo però completamente metabolizzato, per cui non si subisce più un matrimonio infelice perché si ha paura delle reazioni sociali. E quindi questi matrimoni che si rompono in più rispetto al passato sono matrimoni che in passato erano matrimoni infelici, per cui erano matrimoni di sofferenze, di frustrazioni. Adesso c'è una nuova libertà conquistata, come diceva lei prima. La gente va dal giudice e dice semplicemente: non ci sopportiamo più e non vediamo perché dobbiamo stare assieme, se non per l'aspetto relativo ai figli, con moltissime persone. Ma sulla questione dei figli magari ci arriviamo tra poco. Io intanto vorrei salutare anche Gian Ettore Gassani, buongiorno. Buongiorno a voi. Il presidente degli avvocati matrimonialisti italiani, magari ci aiuterà a capire qualcosa. Detto che ci arriva un messaggio a suo modo anche un po' straordinario, permettetemi anche un po' di ironizzare. Un ascoltatore ci scrive: io sono alla quarta moglie, penso sarà l'ultima, è tutto perfetto. Insomma, voglio sperare che alla quarta scelta sia davvero così. Presidente Gassani, ci aiuta a capire perché il dato è questo, più 101%, perché statisticamente ci si separa o si poi arriva al divorzio? Quali sono le cause? Sì, fondamentalmente è un po' come diceva il professore Rimini, la crescita sociale, economica della donna ha inciso moltissimo, tanto è vero che nel 60% dei casi sono le donne ad azionare le separazioni e quindi sono la stragrande maggioranza dei ricorrenti, e questo è un dato che fa molto riflettere. C'è anche quindi un atteggiamento però consumistico degli italiani, sia nella scelta di sposarsi sia nella scelta di separarsi. Ci sono i matrimoni fast food, quei matrimoni che si organizzano con le agenzie matrimoniali, che quindi determinano 3 mesi di fidanzamento e poi magari dopo 3 mesi si va dall'avvocato. E poi c'è anche una sorta di crescita esponenziale delle infedeltà. Non c'è soltanto la questione della noia e infedeltà spesso sono collegate, ed è aumentata l'età del traditore. Oggi non si tradisce più a 30 anni, si tradisce a 65. Mediamente di più a 65, sì, l'uomo l'uomo, parliamo del maschio, a 60 anni è particolarmente pericoloso. Tanto è vero che c'è un fenomeno, diciamo, non della terza età, diciamo che 60 anni ancora non siamo nella terza età, ma c'è un fenomeno di uomini 60 anni che puntano alle ragazze molto più giovani. Ci sono molte relazioni con colf e badanti, giovani straniere, e quindi abbiamo un aumento esponenziale di separazioni dei 60-65. Insomma, come diceva ieri il sociologo, il sociologo Alberoni, cioè si riscopre, visto che la salute, insomma, si è allungata l'età della vita e si vive meglio dal punto di vista della salute, a 60 anni un uomo, anche una donna, è in piena attività anche sessuale, è in pieno vigore dal punto di vista fisico. Ma anche la donna tradisce a 60 anni, oggi c'è il tradimento delle nonne. Non è più, insomma, i due sessi cominciano a somigliarsi anche dal punto di vista dell'infedeltà coniugale. Non c'è più la differenza del tradimento della donna che tradisce solo quando è follemente innamorata. Questo è un luogo comune ormai abbondantemente archiviato. C'è una ricerca di conferme di se stessi, la voglia di mettersi in gioco, si da parte dell'uomo e della donna. Probabilmente c'è una confusione nel mondo maschile, ma credo che ultimamente ci sia una confusione anche nel mondo femminile. Sì, tra l'altro mi deve spiegare questa, avvocato, perché io l'ho letta tra le varie statistiche, il ruolo, vabbè, l'ingerenza dei suoceri, no? Questa sì, è una delle cause. Adesso c'è l'ingerenza... piaga sociale, sì, c'è sì, l'ingerenza del suocero. Come? È sempre detto la suocera il problema. È un altro luogo comune. Non è vero che solo la suocera donna sia la vipera della situazione. Ultimamente abbiamo scoperto che, per esempio, i suoceri, soprattutto i padri delle spose, stanno diventando particolarmente agguerriti e pericolosi. Non a caso ci sono stati anche fatti di cronaca eclatanti. Per esempio, quest'anno due suoceri hanno imbracciato i fucili e hanno ucciso i generi. Quindi voglio dire, c'è un cambiamento totale dei costumi, quindi viene meno il concetto di suocera come unica vipera della situazione, quindi ci sono anche i suoceri. Prima i suoceri mediavano, perché la separazione era vista come un fallimento, oggi viene vista come un rimedio, è come una scelta di vita qualsiasi. Prima quindi le famiglie erano i veri mediatori familiari, la separazione era vista come un marchio di infamia della famiglia. Sì. Oggi addirittura sono i genitori di lui o di lei che spingono per la separazione, che vanno dall'avvocato, che concordano la parcella. Questi suoceri. Allora, professoressa Scaraffia, io vorrei un suo commento a quello che ci ha detto il professor Rimini, a dire, cioè, la maggiore libertà, la maggiore emancipazione della donna, e questo è un elemento positivo, storicamente positivo, ha portato però a questa più conflittualità, perché il rapporto è diventato più paritario. Non e c'è gli uomini fanno molta fatica ad accettarlo, questa è la verità, e molto spesso... È questa una delle chiavi delle maggiori separazioni e divorzi? Sì, questo sì, e poi anche delle tragiche epiloghi di alcune separazioni. Però io penso che in tutto questo discorso che è stato fatto precedentemente sento così una speranza, una sete di felicità in queste persone che si separano, dicono non sopporto più il mio partner, lo tradiscono, vanno, una sete di felicità che è anche molto positiva, però è molto... Cioè, io penso che col nuovo partner si troveranno nella stessa situazione 5-6 anni dopo, 7 anni dopo. Come il nostro ascoltatore, la quarta moglie, dice sì, però adesso ho scelto... Lui adesso è contentissimo, però mi auguro che si rimanga contentissimo, però io penso che le difficoltà che uno incontra in una vita di coppia sono poi difficoltà molto spesso portate da noi stessi. E quindi ce le portiamo dietro in tutti i rapporti di coppia. E poi penso che sono anche le aspettative esagerate che hanno le persone, cioè quella di trovare la felicità in un matrimonio, la realizzazione di sé in un matrimonio. Il matrimonio non è luogo di felicità, di realizzazione di sé, è un'istituzione. Bisogna tornare forse un po' indietro a ripensare al matrimonio come un'istituzione sociale, utile alla società, utile all'allevamento dei figli, utile anche alle persone nel lungo periodo, perché noi poi dobbiamo pensare che tutti questi allegri tradimenti eccetera finiscono poi, anche se la vita dura più a lungo di persone fragili che si devono curare, che devono badare a se stesse, anche le risorse economiche, perché poi noi pensiamo sempre è molto più facile fare tutti questi matrimoni quando si hanno molte risorse economiche, allora, molto meno quando se ne hanno di meno, c'è un mutuo di casa da pagare. Quindi io penso che ci sia un'aspettativa sul matrimonio di felicità che è esagerata, che non può nessun matrimonio colmare, anche il matrimonio più felice non può colmare. Lei dice insomma non è il luogo dove cercare la felicità. Intanto la vita umana forse non contiene dei momenti di felicità, come tutte le relazioni speriamo che li contengano, ma poi non può più garantire la felicità quotidiana al matrimonio, mentre invece molte persone pensano questo, quando non la garantisce più dopo un momento di innamoramento. Dicono il mio matrimonio non è bene, mi cerco, tradisco mio marito per riprovare quella felicità, e quindi questo credo che sia un errore fondamentale, perché porti all'infelicità delle persone. Allora io devo andare alle informazioni sul traffico, poi ripartiamo qualche ascoltatore e anche al professor Rimini, cioè introduciamo il capitolo figli, perché poi insomma è un tema cruciale in tutte le separazioni e divorzi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Divorzi raddoppiati in 13 anni, dal 95 al 2008, vi chiediamo, secondo voi è sintomo di una maggiore libertà o di un istituto familiare nettamente in crisi? Per ora prevale per il 63% la famiglia in crisi, questa frase su Radio24.it i voti sono in prevalenza questi. Voglio sentire un paio di ascoltatori, Alberto da Bologna, buongiorno. Alberto. Alberto. Marco da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ma secondo me l'aumento del numero dei divorzi è dovuto, fra le altre, principalmente a due cause. Il fatto che il matrimonio è sempre preso più alla leggera, sia come sacramento in sé, sia come vincolo che lega due persone, e sia il fatto che c'è sempre meno capacità di sopportazione di superare le difficoltà insieme, quindi alle prime difficoltà si è portati a mollare, come diceva la vostra ospite. Sì, però io quello, questo che non capisco, che vuol dire? Cioè, perché allo, non so, 30 anni fa c'era una maggiore capacità di sopportazione o forse una maggiore imposizione nei confronti della donna a sopportare, che sono due cose ben diverse. Cioè, perché 30 anni fa si sopportava, cioè c'erano persone che erano nate col DNA della sopportazione più ampia rispetto a noi, Marco? Oggi, ma invece secondo no? Secondo me sì, c'era molta più voglia di superare insieme le difficoltà, e oggi si è più portati a debitare al partner le difficoltà che si hanno, e quindi guarda, io non sto bene con te, è meglio che lasciamo perdere. Insomma, va bene, grazie Marco. Voglio andare a Vasto, da Michele. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Allora, io sono uno di quei suoceri che ha concordato tutto, anche la parcella. Ah, come il nostro avvocato Gianetto Regassani diceva, adesso sono, i suoceri prendono in mano la situazione, spesso anche in modo molto netto. Solo perché probabilmente nel caso mio avevo più esperienza, anche per ottenere uno sconto sulle parcelle. Ah, vabbè, è una questione, la questione certo. Economica lei ne fa. No, ma voglio certo. Dire, ma lei è entrato nella questione del matrimonio perché? Cioè, nel senso... Molto di striscio ci sono entrato perché vedevo la difficoltà, mi sono accorto che c'era il progetto di vita era incompleto. Se n'è accorto lei? Me ne sono accorto io. Di sua figlia? No, mio figlio. Figlio. Sì. E quindi naturalmente in quel caso, sa, quando i figli poi raccontano la storia, no? E dicono mi trovo in difficoltà, uno cosa fa? Dà il consiglio che gli sembra più giusto, no? Vabbè, il consiglio da padre, certo, questo certo. È ovvio. Ma naturalmente mi sono trovato, niente, molto semplicemente questa è la mia testimonianza. Va bene, grazie Michele. E voglio andare allora al professor Rimini. Allora, la questione dei figli, il fatto di avere figli cambia la prospettiva rispetto al passato di scegliere di separarsi oppure no? Sì, la cambia tantissimo, nel senso che al giorno d'oggi si vedono moltissime separazioni e divorzi di coniugi molto giovani che non hanno figli e che dopo 6 mesi, 1 anno di matrimonio si rendono conto che non vanno d'accordo e semplicemente si separano senza drammi. Questi matrimoni e... fast food, come ci dice Agassi. Sì, ma io anche qui sono un filo più ottimista. Semplicemente si capisce che si è fatto un errore e si rimedia quando quell'errore è ancora facilmente rimediabile. E ognuno poi riprende la sua vita e va per la sua strada. Al contrario, appena ci sono figli, i coniugi, che sono generalmente persone responsabili, ecco, noi secondo me dobbiamo un po' sfatare il mito di questa società di irresponsabili, le persone si rendono conto delle sofferenze che generano le loro scelte generalmente, e quindi appena ci sono figli io vedo spesso grandissimi sacrifici per tirare avanti, grandissima sofferenza, persone che magari vanno a chiedere reiteratamente pareri agli avvocati ma non hanno poi alla fine mai il coraggio di mandare all'aria la famiglia proprio perché percepiscono la sofferenza che questa scelta provocherebbe per i figli. Stare e questo spiega le statistiche da cui siamo partiti, che vedono un incremento delle separazioni e dei divorzi, delle separazioni prima che dei divorzi, nella fascia di età fra i 45 e i 50 anni, cioè la fascia di età in cui i figli sono diventati, diciamo, adolescenti o post-adolescenti, sì, tra i 15 e i 20 anni, quando si pensa che possano capire più, in grado più di, certo, assorbire il colpo. Ecco, questo è un punto interessante. Avvocato Gassani, allora, la questione dei figli, cioè lo stare insieme per i figli, è chiaro che non c'è una risposta in questo caso bianco-nero, cioè la risposta se sia un bene o sia un male, poi bisogna vedere come evolvono le cose, come evolvono i rapporti, però questa è la domanda delle domande. Stare insieme per i figli, in linea di massima è un bene, lei dalle situazioni che ha vissuto? Concordo con la questione in parte, perché purtroppo invece noi abbiamo dovuto rilevare che la nascita dei figli spesso scatena la guerra, non sempre un figlio è un collante o un'assunzione di responsabilità, soprattutto quando si è giovani. Indubbiamente però, come giustamente hanno detto gli altri, non dobbiamo essere assolutamente negativi, bisogna anche dare dei messaggi di positività. La famiglia italiana è ancora un baluardo della nostra società, ovviamente però i numeri parlano chiaro, ogni anno ci sono circa 130-140 mila bambini con la valigia, cioè bambini che a un certo punto a fine settimana devono lasciare un genitore collocatario per andare a trovare l'altro. Ed è, insomma, non è una buona situazione, si parla di 1,5 milioni di bambini che hanno vissuto così negli ultimi 10 anni, quindi è una situazione emergenziale, su questo non c'è dubbio, però c'è anche da dire che c'è una forte tenuta soprattutto nel sud Italia, dove le separazioni sono la metà rispetto al centro-nord e dove le regioni come Campania, Sicilia e Calabria sono le regioni in cui bene o male i numeri delle celebrazioni dei matrimoni sono abbastanza alti rispetto alle altre regioni, quindi bisogna anche distinguere il nord dal sud. Il fenomeno del tracollo della famiglia è un fenomeno del centro-nord, nel sud c'è ancora una sostanziale tenuta del matrimonio, lo dicono chiaramente le statistiche. Io, professoressa Scarafia, c'è qualche messaggio per lei? Qualcuno ci dice di ringraziarla perché vuole smorzare l'assurda retorica della felicità individuale, no? E qualcun altro che, no, qualcun altro che ci dice il matrimonio è un secondo lavoro addirittura. Insomma, però questa visione che lei ha, mi sembra di capire, è abbastanza anche pessimistica, no? È la vita realistica, guarda, realistica. Lo vedo nella mia vita, lo vedo nella vita di tutte le persone che conosco. Poi ci sono degli aspetti meno clamorosi della piacere sessuale, dell'innamoramento, ma un affetto costruito nel tempo, una solidarietà, un potersi fidare di un'altra persona, che sono molto importanti e che migliorano molto la vita, però vanno costruiti lentamente, non sono dati dall'inizio del matrimonio. Ma la gente crede che nella società di oggi la gente accetta di costruire lentamente qualcosa? No, ma cioè, non se sembra c'è più niente, cioè vedo anche i ragazzi a scuola che vogliono tutto subito, non accettano di imparare a fare i riassunti e la sintassi per poi scrivere bene italiano. Cioè c'è nella nostra società una fretta ad avere tutto subito, un'incapacità di capire che per avere delle cose di vero valore ci vuole un lavoro un po' lungo, un investimento lungo. Sentiamo fatica. Sentiamo Maria da Roma. C'è in linea Maria? Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno. Senta, io ho 39 anni, sono sposata da quasi 16 anni. Credo insomma di avere una famiglia piuttosto felice. Poi ovviamente la felicità è una cosa personale, per carità. Ma credo che fondamentalmente oggi ci sia poca voglia di scendere un po' a compromessi. Il matrimonio, come qualunque relazione, è formata comunque da due individui distinti e credo che ci sia poca forse voglia di venirsi incontro uno con l'altro, perché è comunque complicata, tutte le relazioni sono complicate, anche quelle di lavoro, anche quelle dell'amicizia sono comunque relazioni complicate. Credo ci voglia forse un pochino più di compromesso uno verso l'altro e un po' più di disponibilità, forse quella che è venuta a mancare. È questa secondo lei la causa? Per la troppa libertà. Anche lei dice per la troppa libertà, cioè in che senso? Per la troppa libertà di chi? Specialmente abbiamo forse fatto, grazie a Dio, dei passi da gigante per certi versi, però forse abbiamo perso un pochino della nostra femminilità e un pochino della nostra disponibilità nei confronti degli uomini. Vabbè, questo, lo dice lei che è donna, dunque questa è la sua opinione. Da Roma mi sposto a Milano, da Donatella, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sto ascoltando la vostra trasmissione e volevo dire qualcosa sulle coppie. Più che la famiglia, il problema direi che è una crisi di coppia, evidentemente. I matrimoni piacciono, le donne si vogliono vestire col vestito bianco, avere i fiori in chiesa, eccetera. Poi dopo si accorgono che forse è un po' più complicato. Ma volevo introdurre un elemento che finora non avete toccato. la famiglia è più sola, era fondata una volta o ancora adesso sulla donna che deve fare un sacco di roba, e la famiglia è lasciata sola, vogliamo dire questo? Vogliamo dire che siamo lo Stato in cui si investe meno nella famiglia, si mettono le cose, lo Stato, il governo investe meno, dà meno soldi rispetto a qualunque altra nazione in Europa? Beh, forse questa... i soldi potrebbero aiutare a gestire meglio e a vivere con più serenità. È un tema interessante, no? Che lei introduce, anche se lo introduce al termine della trasmissione, quindi io su questo però mi devo fermare. C'è chi ci scrive, sono arrivato 3 volte a sposarmi, sono ancora single, che sia un segno del destino. Forse sì. O Emanuel da Vicenza che ci scrive, ho 30 anni, 3 figli, sono felice. Secondo voi dovrei considerarmi strano? Ma no, Emanuel, ma per carità. Ovviamente complimenti. Ci fermiamo ringraziando tutti la professoressa Scaraffia, il professor Rimini, l'avvocato presidente degli avvocati matrimonialisti italiani Gianettore Gassani, e che dire, votate ancora su Radio24.it, in redazione Sara Spreafico, in regia ormai il celebre alpino Peter Bescapè, e allora noi ci sentiamo lunedì mattina 7:30.